B. Ascolta e controlla. 1. Ho scritto un biglietto di invito a Paolo e gliel'ho mandato per posta prioritaria all'indirizzo dei suoi genitori. 2. Siamo saliti in treno a Firenze e ne scenderemo alla stazione di Milano. 3. Prima di entrare in aula, gli studenti parlano agli amici dell'altra classe. 4. Hai indicato la strada per il mercato alla signora? Sì, gliel'ho indicata un paio di minuti fa. 5. Fabio vuole inviare una cartolina da Venezia ai suoi fratelli. Gliela manderà subito. 6. Quando Michele e Sandra sono andati in vacanza, hanno preso a noleggio una macchina per una settimana. 7. Abbiamo tentato di finire tutto il lavoro, ma non siamo riusciti a terminarlo in tempo. 8. Signore, ha provato a chiedere informazioni al vigile? Sì, ma non ci sono ancora riuscito. 9. Lucio ha preparato i documenti per me e me li ha consegnati in ufficio. 10. Prima di uscire dall'albergo, hanno lasciato le chiavi sul banco della reception.